précis, basé sur la bêtise. Je me rappelle qu'à fois en arrière, tout le monde s'est passionné pour les routières. Les Texans, le Levis étaient de rigueur. Les Ray-Bans sur le nez et les gros bombers. Barbe de 3 jours à la George Michael. Le casque au bras pour ne pas cacher la belle gueule. Tout allait bien, les filles aimaient ça. Oui mais voilà, un bonjour Mickey arriva. Est-ce une passion ou un luxe? Est-ce un must ton cycle autofusque? Oui. Parle-moi, vas-y, n'aie pas peur, dis-moi. C'est le temps pour la drague, je le savais déjà. Tu l'as voulu, maintenant tu fleurs ta thune. Parce que ce crâne de Mickey Rourke en a une. Le bandana est un option. Super de grissement de pneus. Aussi super de mon estime. Non, tu dépasses les bornes. Tu as de l'allure à porter les cornes. Les membres du sexe féminin attendent des presses. Le vomissement du moteur, la vitesse à l'avant au bon monde et derrière accroché dans ton dos. Aime-t-elle ta personne ou bien ta moto? Sors un aïe avec des racaillons pleine chaîne. Étudiant la semaine biker de week-end. Même si ton humour dans la nièce réglisse, sans t'appels en type à entre les cuisses. Lorsqu'elle te largue et tu t'aperçois que le siège en cuir les a plus touchés que toi. Là pourquoi tu as changé tes opinions? Parce que sinon tu étais bon pour la masturbation. Du coup tu portes des gilets en cuir et des boulards. Behorne, Davidson et Malmoroman. Tu joues les durs et les vrais rebelles. Tu te dis que tu vas te faire les plus belles. Ton fantasme bien sûr c'est Daytona Beach. Alors tu tripes sur la highway de la corniche. T-shirt blanc, lunettes noires, les cheveux au vent. Pas de casque et vlog, bébé dans les dents. Brancher de bord de la Del Scott. Peux jouer à la horde sauvage avec tes potes. Années 60, les chaussures et le froc. Dis-moi, tu mets aussi les slips qu'ils avaient à l'époque. Alors on se sent fort avec du cuir sur le citron. Avec des bottes carrées, on se prend pour Marlon. On fait le révolté contre la société. On fait des défilés de fringues sur la rue Saint-Fée. Le style loupard, y'a pas à agir, ça jette. Faut pas faire chier bébé quand tu répares sa pétrolette. Voilà méchant, ça attire les minettes. Mais tu vis encore chez maman, petite jeunette. Tu n'es pas easy, plutôt pas le rider en personne. T'es Léon Davidson. À te voir primer sur la route. On se demande si le casque sert à protéger le coude. Lunettes de soleil en pleine nuit. Tu m'étonnes quand tu ne vois plus personne. Ma armée Davidson Von Bourg. Non, je ne suis pas jaloux, mais j'en ai assez de lait qui offre mon fond. Qui pourrait te venger, alimente-le. Sfumiamo questo pezzo di un gruppo francese che introduce Coccoli al Silicio, la puntata del 29 settembre, sì, non è ancora ottobre, siamo ancora a settembre, l'autunno è solo all'inizio. Oggi siamo in ritardissimo come sempre, però tanto è solo la seconda, no, la terza puntata che faccio, di cui una comunque l'ho registrata da un'altra parte, quindi alla fine non se ne accorge ancora nessuno se sono in ritardo, tanto nessuno sa ancora che ora dovevo essere, e quindi sì. Per oggi però abbiamo una grossissima novità, visto che ormai mi ero abituato a fare la trasmissione con qualcuno, non essere tutto solo soletto, allora ho mendicato un aiutino, ed è il motivo di questa sigla così francese. Peraltro, se volete sapere chi erano gli, ecco, già qui ora io non so come leggerlo. Yem, che sono un gruppo hip hop delle vetusta scena anni 90, ma che si è trascinato fino ad oggi. In realtà penso che abbiamo sentito le Harley Davidson, che non c'entra niente con l'argomento della puntata, come sempre d'altra parte, che però è un pezzo molto bello perché è tutto saltellante, un poco funky, e prende in giro coloro che hanno l'Harley Davidson. Se vi piace l'Harley Davidson e vi siete offesi, non ce ne frega niente, anzi, haha. E il motivo appunto della sigla francese è perché la prima cosa che facciamo qui con ospite la signorina che di solito conduce Slick Chick e La Fuga del Gatto, che vanno rispettivamente in onda il mercoledì alle ore 21, vado fortissimo, so anche gli orari, e la domenica quando se ne ricordano. Quando c'è, infatti, ultimamente poco. Però. Comunque teoricamente sarebbe alle 18, non 17 ma 18, E quindi la, questa volta però l'ho presa nei panni dell'informatica, che è persona noiosissima, e quindi l'ho costretta a fare la recensione di un libercolo che abbiamo acquistato alla fiera scusate la tisi che abbiamo acquistato alla fiera dell'editoria anarchica qui a Firenze, e questo libro è di una casa editrice francese e ha come buffo argomento addirittura l'informatica, e in particolare il titolo è una roba veramente buffa, a me non mi ha fatto tanto ridere perché i francesi traducono sempre tutto, e quindi hanno fatto questo libro che, letto in francese non lo so, però in italiano secondo me è la guida dell'autodifesa numerica. Sì, te lo confermo, perché in effetti i francesi hanno questa simpatica tradizione di tradurre un po' tutto, e per cui il mouse diventa il souris, il topino, insomma c'è tante simpatiche cose, il computer è l'ordinateur e quant'altro. E quindi loro, quando devono parlare di mondo digitale, dicono le mondo numérique, ad esempio, cioè il mondo dei numeri. È un po' così, un po' tagliato con l'accetta, però forse, vabbè, che si deve fare, sono francesi, sono così, d'altra parte prendiamoli per come sono. Io sì, mi sono messa il camice perché oggi devo parlare di cose tecniche, allora... Ah, pensavo perché ero malato. Anche, no, quello no, perché sono malata un po' anch'io, quindi insomma non è che sono tanto brava a guarire gli altri. Però sì, dovendo fare cose, parlare di cose, dei numeri, appunto, c'ho il camice. E io in realtà ho dato una prima scorsa a questa guida, la guide d'autodéfense numérique, quindi sì, la guida... Vedi come lo dici te, subito più bello. È però. Subito francese. Cioè, quando io ho detto la guida all'autodifesa numerica, facevo ridere. Insomma, che poi il mio francese ora non è che sia sta gran cosa, però vabbè. Comunque, più che altro sì, è una proprio effettivamente letteralmente la guida d'autodifesa numerica, o per meglio dire la guida d'autodifesa digitale. Più o meno si potrebbe tradurre così più correttamente. È una guida uscita in questa edizione cartacea ora, cioè proprio una fresca novità, perché è uscita il 15 settembre del 2017, quindi in realtà proprio 10 giorni fa, una settimana appena fa, appena cascata dall'albero, sì. Come le mele d'autunno. È una primizia questa che vi diamo, e proprio solo per voi, solo per gli ascoltatori del Wombat e delle radio amiche, perché in realtà questa guida è una guida che vede la sua prima edizione nel 2013, quindi c'ha un po' di anni ormai, 4 anni, però poi è stata via via rieditata in altre edizioni, perché anche giustamente, come fanno notare loro e come è abbastanza evidente, una guida del genere non può esaurirsi in un'unica edizione, perché... il mondo numerico cambia molto, il mondo digitale si evolve o si involve anche spesso e volentieri, e quindi in realtà bisogna aggiornarsi, e quindi la guida è stata aggiornata più volte, e questa è l'ultima edizione presente. È una guida, io ancora non l'ho letta perché ho un malloppo di 500 pagine e quindi vabbè che il francese un po' lo so, ma insomma non è che in 3 giorni, che è il tempo da cui la posseggo, sono in grado di leggerla, però... No, poi l'ho sfogliata e c'è anche pochissime figure. Poche. E in bianco e nero. Sì, però sono belline anche, cioè non sono brutte come figure. Però sì. Sì, ma sono poche. Sì, sono poche. È vero. Cioè, per chi come me si salva guardando le illustrazioni, è un problema. È un problema, però a sua discolpa c'è da dire che almeno per la scorsa che gli ho dato finora mi sembra molto chiara, molto esaustiva, e mi è sembrata molto ben fatta. Anche per questo abbiamo scelto di parlarne qui, perché effettivamente io non so te, ma io sono piuttosto scettica in genere sulle guide di autodifesa digitale, perché mi sembrano sempre quelle cose che devono in fretta e furia bozzare 2 o 3 consigli, e finiscono con essere spesso poco esaustive, finiscono con dire magari strafalcioni, con rischiare di generare nelle persone che le leggono un falso senso di sicurezza, per cui gli sembra che con quelle 3-4 cose che gli hanno consigliato di fare sono a posto, e poi in realtà non è vero, anche perché molto spesso le buone pratiche di autodifesa derivano da una conoscenza un po' approfondita e più che altro dalla valutazione della situazione che stai affrontando, insomma, non è sempre uguale, è sempre oggettivo. E loro lo dicono però questo? Loro lo dicono, infatti mi sono piaciuti perché in realtà... allora, ci sono diverse cose che ho apprezzato nell'introduzione, che per ora è quello che ho letto, oltre a un po' una letta così varia delle cose del sommario, eccetera, eccetera, qua e là qualcosa. Loro dicono, innanzitutto, che parlano di una cosa che mi è piaciuta come definizione, parlano dell'assenza dell'intimità nel mondo digitale, che secondo me è una bella definizione, perché si parla sempre di privacy e di sicurezza, ma questo fatto è molto francese. Intimità è più bello. È più infatti bello, uno vero? Pensa subito alle calze a rete, alle calze... Sì, capito, quelle, ai bistrò. Sì, sì, sì. Sono raffinati i francesi. Sì, sì, sì. Però sì, mi è sì. piaciuto, mi sembrava calzante. Con le calze. Forte. Sì. E poi un'altra cosa interessante che loro dicevano e che appunto sfatava un po' questo concetto del fare la guida veloce, usa e getta, è proprio invece partire dal discorso che, ok, per difendersi vagamente, perché poi vagamente stiamo dicendo, dalle insidie della tecnologia, c'è bisogno di lentezza. Quindi loro ti dicono, è un mondo che ci rendiamo conto essere molto vertiginoso, molto, molto veloce, però per provare a venirne a capo e sopravvivergli bisogna invece prenderci della lentezza. Quindi loro ti dicono, per capirci qualcosa ti devi prendere del tempo per studiare, per capire come funzionano le cose, e quindi ti devi puppare sto malloppo di 500 pagine. Che quindi posso capire che è un po' spaesante, però effettivamente lo trovo giusto e onesto come concetto. Quindi poche figure, molto scritto, molte pagine, però a sua discolpa scritte secondo me bene e chiare, e quindi insomma mi sembra buono. Sono due tomi, loro l'hanno diviso in due tomi, anche se in cartaceo in realtà è uno solo, però... Ah ecco, mi stavo preoccupando, pensavo ne uscisse un altro tra mille. Un po'. No. Cioè. No, loro l'hanno divisa in due. C'è un buon lavoro secondo me di organizzazione del lavoro, perché insomma, cioè, dell'argomento, perché insomma è un argomento molto vasto e quindi era difficile un po' approcciarlo. Loro l'hanno diviso in due cosiddetti tomi, perché poi, non ve l'ho detto, ma io ho preso la versione cartacea, ma online all'indirizzo guide.boom.org, ovvero è scritto guide.boom.org. Ah, ma lo scriviamo poi meglio sul post, sì, sul blog, sì, su wombat.noblogs.org. Sì, poi li mettiamo tutti i vari link. A questo indirizzo trovate la versione digitale, fra l'altro scaricabile in PDF oppure consultabile online, quindi piuttosto interessante. Tra l'altro loro ti dicono all'inizio di ogni parte tecnica, perché ci sono parti tecniche e parti un po' più filosofiche, le parti tecniche hanno un disclaimer all'inizio, secondo me anche questo molto onesto, che ti dice, siccome questo argomento probabilmente scadrà tra breve, perché non è detto, cioè io ti dico come usare un certo programma, ma magari tra 2 mesi questo programma cambia e quindi la mia guida è inutile, tieniti aggiornato sulla versione digitale che noi ti promettiamo, terremo molto aggiornata con le ultime novità. Quindi lì vi potete trovare la guida in versione digitale, che è divisa in due tomi, appunto. Il tomo sulla parte offline, loro l'hanno divisa così, offline, che essenzialmente affronta la questione di come funziona il computer. Chiaramente a grandi linee, però insomma ti dà un'infarinata. E poi la versione invece online, che approccia tutta la questione dell'internet, quindi dei tuoi dati che viaggiano, che non stanno più solo sul tuo computer, ma viaggiano anche in rete e vengono condivisi con gli altri. E chiaramente i due argomenti si incrociano spesso, si intrecciano, però loro si sono dati questa cosa per ordinarsi. E niente, poi l'unica altra cosa che vi potrei dire è un po' il motivo per cui loro hanno deciso di fare una nuova edizione nel 2017 dopo le altre, che essenzialmente è perché ci sono state delle simpatiche cose nel mezzo. Snowden c'era già stato. Già stato. E quindi, vabbè, però ci sono stati altri leaks, altre robe importanti. E soprattutto c'è un nuovo contesto, un nuovo, diciamo, un'evoluzione del già esistente. Ma hai detto 2013? Sì. Ah. Sai che non me lo ricordo se era già stato o se era in corso, era l'anno prima. Io speravo che lo sapessi te e non fare figuracce. Mi sono lanciato, ma poi mi è venuto in mente 2013. Effettivamente non sono mica sicurissimo di quello che dico. Io non mi ricordo niente, neanche di ieri. Anni fa. No, a me mi sembra che Snowden è stato più di 4 anni fa. Secondo me c'era già stato perché... Era lì lì, secondo me è stato lo spunto per l'edizione precedente. Tiriamo a indovinare. Sì, sì, è andata sicuramente così. Quindi diciamo che un po' di cose c'erano già state, sicuramente, lo diamo per certo. Però ce ne sono state altre poi dopo, anche perché Snowden ha rilasciato robe e continua a rilasciarne, quindi non è che è finita lì. In più c'è stato un contesto geopolitico, beh, loro, ricordiamoci, sono francesi e se lo sono vissuto sulla loro pelle, è cambiato, loro sono sotto stato d'emergenza attualmente e quindi hanno leggi speciali e quant'altro, cose simpatiche di questo tipo. E loro lo accennano un po', fanno anche un quadro legale un pochino piuttosto interessante, anche se chiaramente parla della Francia, però tanto non è che la nostra situazione sia tanto diversa. E parlano di una serie di leggi che sono state fatte negli ultimi anni, cioè perlomeno da quando avevano fatto loro l'ultima edizione, che sono state importanti, alcune delle quali molto simili a quelle che hanno fatto anche da noi, perché vabbè, hanno fatto una legge sull'informazione, varie leggi, non una ma varie sul terrorismo, quindi che usavano il terrorismo come pretesto per un'ingerenza sempre maggiore nella vita delle persone, cosa che appunto non succede solo in Francia ovviamente. E poi è stata fatta rientrare la questione dei malware, è stata fatta una legge ad hoc per i malware, per l'uso dei malware, che è praticamente una cosa abbastanza simile a quella che è successa qui in Italia. È stato deciso che i malware andavano bene, che si potevano installare dall'esterno, cioè quindi dal remoto, ma soltanto per una lista di reati, cioè in caso di tot reati si poteva intervenire. Questa lista di reati ovviamente è una lista piuttosto lunga, di reati anche abbastanza generici, dove poi ci puoi infilare un po' di tutto. Beh, si uniforma più o meno a tutte le altre legislazioni europee, cioè anche la nostra in Italia alla fine è la scopiazzatura di quello che hanno fatto tutti gli altri, cioè nessuno stato alla fine ha assunto come proprio nessuno dei ragionamenti relativi appunto alle considerazioni più legate alla libertà degli individui, cioè tutti quanti hanno deciso di fare più o meno uguale, legislazioni più o meno simili per non togliersi sostanzialmente nessuno strumento di indagine e di controllo, anche se questo comporta delle grosse limitazioni poi per la libertà individuale. Sì, quello che dicono loro che è molto interessante, che poi insomma è quello che diciamo un po' tutti, è che dopo, in seguito ai vari leak, quando si sono state scoperte che effettivamente venivano usati mezzi extra legali, chiamiamoli così, ai bordi della legalità per acquisire dati e per acquisire informazioni, quello che è stato fatto è stato essenzialmente far rientrare per il rotto della cuffia questi metodi all'interno dei contorni della legge, quindi non si è mai usato il leak per dire beh però questa cosa qui fa schifo, non si deve fare, no, è stato detto ok, questa cosa qui è extra legale, facciamola rientrare nella legalità. Quindi da lì tutta una serie di leggi e una serie di maldestre riparazioni, diciamo, anche perché chiaramente il concetto alla base è che queste cose devono essere fatte e non gli dobbiamo chiedere di rendere conto di niente. Che poi da un punto di vista anche così di analisi quasi del passaggio logico che c'è tra queste cose è molto figo, perché è un cortocircuito, nel senso che la maggior parte poi delle forze politiche che vanno a effettuare queste manovre sono le stesse che poi sbandierano la legalità, no? E quindi da un lato te difendi una legalità come se fosse qualcosa di intoccabile, per cui che ne so, nel caso, che ne so, io occupo uno spazio e non va bene perché è illegale, però dall'altro trasformi, cioè quando poi devi andare a applicare veramente questa legalità, la trasformi in quello che è, cioè il risultato di una serie di rapporti di forza. Cioè la legalità è determinata dai rapporti di forza, e quando tu, loro tenendo la forza dalla loro parte, la trasformano appena il, diciamo, la prassi non è più difendibile e diventa quindi illegale, allora per riportarla all'interno di un discorso sulla legalità, la legalizzano. Certo, esatto, cosa che poi è completamente diversa in mille altri ambiti della vita quotidiana. Di noi poveracci. Di noi poveracci, esatto, sì. Essenzialmente sì. Però è interessante perché quando poi vanno a esprimere questo ragionamento sulla legalità viene espresso come se fosse direttamente logico e derivabile, cioè è illegale quindi sbagliato, e tu dici vabbè, però tutte le cose illegali tue che hai trasformato illegali poi diventano automaticamente giuste, cioè è come se andasse bene nel loro caso di estrapolare l'etica e far coincidere la legalità con l'etica, però in tutti gli altri casi questa cosa non è valida, è valida soltanto nel momento in cui si interviene su qualcosa che mette in gioco la ragion di Stato, la sicurezza nazionale, interessi economici forti, tutte queste cose qui. Che non è la scoperta dell'acqua calda, non è che sto a dire grosse cose, però è interessante come tutti questi ragionamenti vengano sciorinati così, cioè a caso, nel senso che non c'è, non so, qua scatta un automatismo, no? Cioè non c'è dibattito su questa roba qua, o se c'è comunque, ma sei il solito rompipalle, capito? Ma poi ci fanno gli attentati, che dobbiamo fare? Non è possibile uscire da questo meccanismo di finto dibattito, di dibattito dove già è tutto deciso alla fine. Oppure, come abbiamo visto se possiamo chiamarlo dibattito in Italia sulla questione delle leggi sui malware, cioè anzi veniva invocata la legge perché così finalmente possiamo regolamentare uno strumento che altrimenti non sappiamo che confini ha. Certo, e poi si entra è delirante perché nel momento in cui sai già per certo che la legge sancirà l'arbitrio, allora anche da un punto di vista meramente logico, che differenza c'è tra mantenere la situazione che è arbitrio e fare invece una legge che sancisce l'arbitrio? Cioè non c'è alcuna differenza se non formale e se non per avvallare ancora questo discorso su ma se è legale, ma è legale, allora va bene, ma vedi che lo possiamo fare, ci sono tutte le garanzie. Cioè, se mi dai la garanzia che comunque stai, diciamo, in qualche modo andando a esercitare un arbitrio, io non mi sento tranquillo dal fatto che comunque ci sono tutte le garanzie legali perché lo puoi fare. Sarò strano. Vero? Incredibile. Sono scemo. Ora si mette un pezzo se... Sì, no, magari si spezza. No, l'ultima cosa che volevo dire, così poi finisco l'argomento e me ne vado, mi levo il camice e tutto, era che tra le varie cose, perché ora abbiamo parlato un po' di questioni più politiche e filosofiche, però in realtà è anche una guida molto tecnica, ci sono cose molto interessanti e effettivamente dà un sacco di strumenti e tutto quanto. Tra l'altro, tra chi ha contribuito a scrivere questa cosa, palesemente c'è lo zampino di Tails, almeno Tails viene spiegata molto bene. E uno dei motivi che hanno portato a fare una nuova edizione di questa guida, oltre a quelli che abbiamo detto finora, era anche il fatto che nel frattempo a giugno è uscita la nuova versione di Debian, la Stretch, quindi dopo è uscita anche la nuova versione di Tails, quindi in realtà molte cose che avevano scritto nella vecchia guida andavano un po' aggiornate e soprattutto la nuova Tails c'ha dei cambiamenti abbastanza sostanziali e quindi in questa guida trovate un adeguamento a questi nuovi cambiamenti che ci sono stati anche in Tails, quindi penso sia piuttosto interessante. Purtroppo sì, è in francese, chissà, magari un giorno riusciremo a tradurla, sarebbe bello, però se un po' padroneggiate il francese io ve la consiglio vivamente. Altrimenti lo tenete lì sulla libreria, che comunque fa figo. A reggere il tavolo anche, perché è grosso. Ah, così uno entra in casa e dice, ma madonna, il libri legge questo. Che perché numerici sembra che ne stai parlando di chissà che, invece, computer. E loro sì che si sanno dare importanza, capito? Cioè nel senso che anche con questa traduzione dei nomi sembra tutto più bello, sembra uscito veramente da un romanzo dell'Ottocento con gli alambicchi. Capito? Le cosine d'ottone, i pesini, come dovrebbe le ampolle, come dovrebbe essere la scienza moderna. Numerica, sì. Sì, come era una volta, come quando piaceva a noi. Ah, se ci piaceva. Che bei tempi. Adesso ascoltiamo infatti un pezzo che in realtà introduce il prossimo argomento, che non c'entra niente con quello che abbiamo detto finora. Party starts to come alive until the day is dawning. Can throw out all the blues and hit the city lights, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, give me the night. You need the action. Dine a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, give me the night. So come on. Sfumiamo elegantemente per concludere questo pezzo, che ho rimesso in realtà per ripicca perché è uno dei miei pezzi preferiti ed è stato tolto secondo me giustamente dall'attuale bobina di Radio Wombat, e quindi io adesso per ripicca lo rimetto a ogni trasmissione. No, non è vero, però anche sì. In realtà lo volevo usare per introdurre una cosa, anche qui i salti sono mortali, cioè il pezzo si intitola Give Me The Night, e lo volevo usare per parlare in realtà di una cosa che abbiamo già discusso e presentato nelle settimane passate, però ormai ci siamo e mi sembra giusto ribadirlo. Questo sabato, il prossimo sabato e la prossima domenica, cioè sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre, quindi non quelli che vengono adesso ma quelli ancora dopo, presso la mensa occupata in via Mezzocane 14 a Napoli, si terrà NAC, che è una sorta di... di mini hack meeting invernale, il primo di una serie che, di incontri che si terranno questo autunno-inverno, diciamo, sempre in qualche modo nell'ottica e provenienti dalle comunità che gravitano attorno alla comunità più grande di hack meeting. Il sottotitolo di questa diciamo di queste due giornate è Look for Your Backdoor. E volevo un po' aggiornarvi, nel senso che ne avevamo parlato intervistando due persone o più, non mi ricordo più, diciamo degli organizzatori, però ora è uscito effettivamente il programma e le informazioni precise sull'evento, quindi mi sembrava corretto ritornarci sopra e approfittarne per diciamo ribadire il concetto, anche perché poi la prossima settimana, la mia trasmissione che è di venerdì, in realtà non so se avverrà davvero, perché io quel venerdì sarò appunto a questo NAC, e in particolare sarò all'evento di warm up della due giorni, che riguarderà principalmente le radio, diciamo le radio in onde medie, e che si terrà non presso la mensa occupata ma presso il terzo piano autogestito, sempre a Napoli, e quindi non so se avrò occasione di ribadire questa cosa la prossima settimana. Il programma dell'evento invece della due giorni NAC vede il 7 ottobre sabato, si parte diciamo dalla tarda mattinata, perché presumibilmente per chi non è già arrivato il giorno prima per il warm up del 6 ottobre l'arrivo a Napoli potrebbe non essere veloce, se arrivi da sopra a Roma, insomma, e quindi arrivo in tarda mattinata. Alle ore 13 ci sarà il pranzo, dalle 15 alle 19 ci saranno una serie di seminari che poi vi illustro, cioè vi leggo velocemente il titolo. Alle 20 la cena, alle 21 inizia questo EOF Land Space Hacking Contest, che è il motivo per cui ho messo il pezzo Give Me The Night, perché esso contest, che sarà a quanto abbiamo capito una roba giocosa di hacking un po' smanettone, partirà appunto alle 21 e andrà avanti fino a che ci arregge, e quindi ho pensato di dedicargli questo pezzo Give Me The Night di George Benson, che è un pezzone di disco music secondo me è notevole, ecco. Poi la domenica, quando ci si sveglia, c'è proprio scritto sveglia con calma, ora 12 assemblea plenaria, che sarà quella forse in cui si parlerà un pochino ancora del futuro prossimo hack meeting del prossimo anno, visto la genesi di questo evento, e a seguire ci sarà ancora il pranzo e poi basta, e poi ci levate dalle balle tutti via da Napoli, basta, cioè finita la cosa, tutti a casa. E questo è quindi quanto avverrà. Se volete ulteriori informazioni potete controllare il sito NAC, scritto NACK.M come Modena, SACCK anche qui, .org, che poi vi lascio scritto sul blog perché è più facile, e lì ci sono tutte le informazioni anche per raggiungere il posto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è quanto. L'evento appunto sarà distribuito su questi tre giorni, nel senso che c'è anche il warm up del 6, quindi teoricamente per chi vuole arrivare, penso già il 6, non penso ci siano problemi di ospitalità anche per il 6 notte. E quindi nulla, se non avete grosse cose da fare questo weekend e vi va di farvi un giro a Napoli, secondo me questo non è un posto brutto dove andare, anzi è bellino, io ci vado. Ah, ecco, però mi sono dimenticato di leggervi i seminari del sabato pomeriggio, che a sto punto quasi quasi ve li leggo davvero, perché sono usciti da poco, sono delle anteprime. Allora, si inizia con Social Network Analysis a carta e penna. Quindi parleremo dei social network, ma solo con la carta e con la penna. Buffo, forte. Questo è un altro che è Paccioccare gli Elfi e Richiamino. Questo mi sa che questo lo faccio io. Ed è una roba che avevo iniziato a fare ad Hack Meeting e questo è il richiamino sulle cose che ad Hack Meeting non mi è riuscito di fare, cioè che non l'avevo ancora fatte, e avevo detto poi le faccio e ve le dico la prossima volta che ci vediamo. Mo è la prossima volta che ci vediamo e devo dire qualcosa di nuovo, e quindi sono qui a fare il richiamino sostanzialmente. Poi c'è un seminario che si intitola A Community Mesh Network, tutto in inglese, chissà se poi è tutto in inglese, che storia. E comunque si parlerà di reti mesh. Poi c'è un altro seminario ancora, Indipendenza Tecnologica Volume 2, che anche questo deve essere essenzialmente un richiamino di Indipendenza Tecnologica Volume 1. No, è la presentazione di Indipendenza Tecnologica. Comunque, se volete sapere che cos'è più preciso, visto che non ci sono descrizioni e tutto è molto fumoso, tocca che venite a Napoli oppure che qualcuno pubblichi delle descrizioni più lunghe. E l'ultimo seminario è Talos, A Secure Approach to Storage in Untrusted Amps. Anche questo tutto in inglese, chissà se sarà veramente tutto in inglese. Cavolo, io non ci capisco niente, io però vado qua, guarda quante cose in inglese. Mi tocca che mi impegno, che faccio il corso, o che mi trovo un amico che mi sta seduto vicino vicino e mi traduce tutto. Vabbè, sono fatti miei, mi organizzerò in qualche modo. Ora ci ascoltiamo un altro pezzetto, così poi andiamo a un altro evento, perché dopo la recensione, che è stata la polpa più succosa della puntata, c'è tutto il resto, è in realtà una presentazione di eventi e di cose future che avverranno. Il prossimo, ve lo anticipo, avverrà a Bologna e ve ne parlo tra poco. Sempre più elegante che faccio. Allora, siamo arrivati al terzo insertino della puntata. Questo è di nuovo un evento di cui si sa poco o nulla, di cui però vorrei parlare perché, per anticiparvi che prossimamente intervisteremo comunque qualcuno al riguardo. Questo si svolge ad XM24 a Bologna, la data è il 3-4 novembre, il titolo dell'evento è Accord Eye. È scritto hack come hacking, or come or e die come mori. Infatti il pezzo che ho fatto ascoltare era Die Die My Darling dei Misfits, che introduceva questo fantastico evento. E questo è uno, diciamo, in hack, mentre in hack era una novità, nel senso che a Napoli non si era ancora provato a fare una sorta di incontro autunno-invernale, o neanche primaverile, insomma non si era provato ancora a fare una cosa simile negli anni precedenti, mentre invece Accord Eye è un appuntamento che esiste almeno da 3 o 4 anni, almeno sì, credo di sì, perché io ci sono andato diverse volte, quindi se ora la memoria non mi aiuta perché non mi ricordo niente, però comunque mi ricordo di esserci andato più di una volta e comunque almeno una sì, e quindi di conseguenza è un evento che si ripete già da diversi anni. Si tratta sostanzialmente di quest'anno 1 a 2 giorni, che appunto si, i 2 giorni sono venerdì 3 e sabato 4, credo, oppure magari è sabato 3 e domenica 4, no, secondo me è venerdì e sabato, presso l'XM24 a Bologna, un posto che, come ricordiamo, è un luogo sotto sgombero, dopo la scadenza della convenzione che le garantiva l'esistenza. E niente, di cosa si parlerà questo Accord Eye? Ma ogni anno è sempre un evento pieno di seminari a tema hacking, quindi a tema con questa trasmissione. Io vi leggo, così come hanno postato nella lista Hack Meeting, la presentazione richiesta di seminari, in particolare per farvi capire un po' di che si parla, per quanto si capisca, qui bisogna fare una riflessione sulle nostre capacità comunicative, anche sulle mie che fanno schifo. Comunque tendenzialmente questo è ciò di cui si parla. Le aree di interesse, oltre alle radio AM, sono sempre le stesse. Tecnologie simpatiche, e questo è facile se capisce. Radio AM, per ribadire il concetto. Decentralizzazione, questo è un po' generico, comunque interessante. Radio AM, per ribadire il concetto. Mobbing di dispositivi di sorveglianza. Questo è un modo creativo di esprimersi. Radio AM, per ribadire il concetto. Server autogestiti e tecniche semi-efficaci per accoppiarsi col proprio server. Anche questo è un modo suggestivo di esprimersi. DIY, pure InfoSec, dove InfoSec significa Information Security, e sarebbe la parte, diciamo, di sicurezza, quello con cui probabilmente la maggior parte delle persone associano l'hacking, cioè quello che ti buca il cellulare. Ecco, l'InfoSec, ma solo se vi avanza qualcosa dopo il NAC, che è l'evento di cui abbiamo parlato prima. Vedi, i collegamenti qua si sprecano proprio. E infine, circuiti che mannaggiano, e questo è un omaggio al mannaggiatore, e gatti laser. I gatti laser è un omaggio ai gatti, che sono divinità egizie di cui bisogna portare rispetto. E questo ve lo ricordo io così, en passant. Sostanzialmente, se volete proporre un seminario su uno di questi argomenti o anche altri che secondo voi c'entrano qualcosa, scrivete a accordeye@totallynot.science. Indicando titolo, giorno, bla bla bla, eccetera. Ma se volete fare tutta sta roba, vi guardate poi sul link che vi metto su il blog, su wombat.noblogs.org, nel podcast della puntata, dove ci sono scritte tutte le cose e quindi anche le indicazioni per poi mandare i vostri seminari, se ne avete. Ma io non ci credo che ne avete, anzi vi sfido. Secondo me non ce li avete. E con questo secondo eventino di cui abbiamo parlato andiamo a avviarci verso la conclusione della puntata, ancora un pezzetto d'altri tempi e poi la allegra conclusione. There's a pain in my heart every time I start thinking of the love that we've had. I'm so sad, my heart's breaking. I keep holding on to these memories. Ritornati da questo bellissimo pezzo, erano The Poppies, un terzetto che probabilmente nessuno di voi conosce, ma manco io in realtà lo conoscevo prima di averlo selezionato per voi. Il pezzo si intitola There's a Pain in My Heart e ve lo dico nella classifica di i Northern Soul Top 500 pezzi e occupa il 102esimo posto. Quindi fuori dalla top 100, ma comunque è un pezzo secondo me molto in tema con l'argomento che andiamo a trattare. Il titolo è infatti C'è un dolore nel mio cuore e ora stiamo andando appunto a parlare di cuori, visto che la due puntate fa si era parlato di questo difettuccio che alcuni bypass presentavano, cioè sostanzialmente diciamo l'interfaccia del bypass con l'esterno permetteva, aveva un tipo di comunicazione non troppo sicura e a detta dei ricercatori era possibile interagire anche per individui non autorizzati, quindi non un medico, ecco, e non un tecnico amico del medico e neanche una persona che dovrebbe avere le mani, cioè dovrebbe poter aggeggiare con il mio bypass, e appunto questo protocollo non troppo sicuro che utilizzavano permetteva attraverso degli apparecchi diciamo che potevano essere tranquillamente acquistati sull'internet ed erano apparecchi tendenzialmente riferibili al mondo dello studio delle radiofrequenze. E nell'altra puntata ne abbiamo parlato più approfonditamente di che cosa si andava diciamo dove si andava a parare, però sostanzialmente permettevano appunto di prendere il comando del bypass e in qualche modo accelerare il battito del cuore, decelerare il battito, fare cose strane, sapere un sacco di cose sul tuo battito del cuore, fare cose al tuo cuore. Ecco, allora mi è venuto spontaneo quando ho letto di questa fantastica notizia collegarle, nel senso che dei ricercatori di un'università che non mi ricordo quand'è, ma deve essere della gente che ha del tempo da investire in un argomento così importante, ha scoperto che sostanzialmente tutti i nostri battiti cardiaci ci identificano in maniera univoca, cioè sono come tipo l'impronta digitale, l'iride, queste cose qua, sono quei dati biologici che vanno a costituire la biometria e secondo loro possono essere utilizzati per identificarci e quindi ad esempio potrei avere un computer che al posto di chiedermi la password, io mi avvicino ed esso mi riconosce dal mio battito cardiaco. E questa cosa è fortissima, no? Cioè lì dice che dai loro esperimenti, praticamente in soli 8 secondi, essi ti tracciano una mappa del tuo battito cardiaco che dai loro esperimenti risulta univoca. Ora, io non so se poi è l'articolo o lo studio o ci sono tanti altri studi al riguardo, però anche se la cosa fosse vera e interessante, boh, non lo so. Però a me ha fatto un po' specie il fatto che sull'articolo citano dicendo, no? Ah, perché dai nostri studi risulta che nessuna persona, cioè tutti noi abbiamo dei battiti cardiaci completamente diversi che ci identificano in maniera univoca. Poi guai a vedere, il soggetto campione di studio erano 78 persone. Ora, io... non è per fare proprio quello, capito, che c'ha proprio il piglio da rompipalle, il metodo sperimentale, cioè, però, no, cioè 78 persone di campione, secondo me non è che sono così tante, cioè ci sta che su 78 persone tutti quanti ci avevano un battito del cuore che li identificava in maniera univoca, però siccome sulla Terra siamo svariate miliardi, no? Cioè, ora, io prima di lanciarmi proprio che questo qua è un sistema super bomba, eccetera, io la butterei un po' lì, un po' più come dire, ma noi abbiamo provato, secondo noi è così. Poi magari guardateci anche voi che si vede se è proprio vero, no? Cioè, poi magari invece è l'articolo che ho letto io, che il giornalista, al solito sensazionalista, voleva far così, in realtà lo studio era probabilmente molto più posato nel porre questa cosa. Cioè, il nostro campione è 78 persone, a noi ci sembra che magari la possiamo utilizzare. Ora, secondo me non è proprio bellissima questa cosa comunque da come sistema di autenticazione, perché cioè basta che a me mi venga a un certo punto un disturbo cardiaco, mi mettono un infarto, mi fanno il bypass, mi cambia completamente il battito del cuore e io manco posso accedere al computer. Cioè, metti caso che io sto avendo un infarto in questo momento, no? E sono davanti al computer e magari, siccome sono un sacco social, sono sempre collegato e c'avevo il pulsantone emergenza, quello che manda su tutti i miei account Twitter, Facebook, eccetera eccetera eccetera, il fatto oddio sto male, venitemi ad aiutare, no? Metti che però mi è partito lo screensaver e io dovevo mettere la password e il mio computer però la password non la prende perché lui mi identifica soltanto dal battito del mio cuore, ma il mio battito del cuore c'ha un cazzo di infarto e io muoio, capito? E secondo me questo è drammatico e quindi io inviterei queste persone a pensare a quello che fanno, perché qua e c'è in ballo le vite delle persone, per Dio. E con questo accorato appello mi accingo a chiudere questa puntata di Coccoli al Silicio, salutarvi, darvi appuntamento non credo per la prossima settimana, a meno che io non riesca a registrare la puntata e mandarla lo stesso, oppure che riesca a improvvisare una puntata da dove sono, cioè a Napoli, a il NAC di cui prima vi narrai. Ciao a tutti.